Lunge da lei, per me non fa diletto. Volaron già tre lune, da che la mia Violetta agi per me lasciò novizie, amori e le pompose feste. O voglio magia vezza, vede a schiavo ciascun di sua bellezza. Ed or contento in questi ameni luoghi, tutto scorta per me. Qui presso lei io rinascermi sento, e dal soffio d'amor rigenerato scorrono negao di suoi tutto il passato. Lenti spiriti, il giovanile ardore, e la tempra col placido sorriso dell'amor, dell'amor. Dal dì che disse vivere, io voglio fermare. Che disse vivere, io voglio a te fedela, sì, dell'universo in me voi, io vivo quasi, io vivo quasi in ciel, io vivo in ciel. Nell'universo in memore, io vivo quasi in cielo, ah sì, io vivo quasi in cielo, io vivo quasi. Anni da donde vieni? Da Parigi. Chi te il commise? Fu la mia signora. Perché? Era Lienar Cavallico, che quanto ancor possiede. Che mai sento? Lo stegno è grande a viver qui solinghi. E tacevi? Di quel silizio imposto. Imposto? Or va bisogna? Il Luigi. Or vanne andrò a Parigi. Questo colloquio non sappia la signora. Il tutto mal può riparare ancora. Thank you. poi? Sta ben, e breve giungerà un'onda a fare, entri l'istante. Ah, scopriva flore il mio ritiro, e mi invita a danzare per questa sera. Il mamma aspetterà. È qui un signore. E sarà lui che attendo. Ma damigella Valeri, son io. D'Alfredo il padre in me vedete? Forse. Sì, dell'incauto che a ruina corre, ammaliato da voi. Forse, son io, signore, ed in mia casa, che io vi lascia sentite, più per voi che per me. Quai modi pure tratto in error voi foste, dei suoi beni egli dono vuol farvi. Non lo so finora, rifiuterò. Pur tanto lusso a tutti è mistero quest'atto, a voi non sia. E discopro d'ogni vostro avere, or volete spogliarvi. Oh, il passato, perché m'accusa? Sorte l'avvenir domanda or qui de suoi due figli. I due figli? Sì. Ora siccome un angelo Iddio mi die una figlia, andar dovea, or si ripuso al vincolo, che lieti, lieti ne rendeva. Te non mutate in triboli le rose dell'amor, te non mutate in triboli le rose dell'amore. A prieghi miei resistere non ho, non voglio il vostro cor, no, no. Ah, comprendo, dove avrò per alcun tempo ad Alfredo allontanarmi. Doloroso ora per me, pur non è ciò che chiedo. Cielo, che più cercate, ho persi assai. Pur non basta. Volete che per sempre voi rinunzi? E dopo? E dopo? Thank you.